premier Sharon, mai come in questo momento, si può ritenere responsabile direttamente dell'inasprimento del conflitto in Palestina, a causa dell'intransigente linea politica condotta dal suo governo e basata su ipotetiche misure di sicurezza come il muro e la repressione militare. L'uccisione dello Sheikh Yassin è il culmine di questa strategia, fondata su un'assurda logica di sicurezza, che invece di ristabilire il dialogo con la parte palestinese ha intensificato l'escalation militare e la divisione fisica tra i due popoli. Misure drastiche che, secondo lo stesso premier israeliano, dovrebbero comportare la soluzione definitiva del problema del terrorismo e garantire la sicurezza tanto agognata dello Stato israeliano. Ma la morte del leader di Hamas ha avuto un risultato immediato opposto, scatenando la rabbia dell'intera popolazione palestinese e quindi aumentandone anche l'odio contro il nemico, e soprattutto ha causato lo sdegno della comunità internazionale, la quale, dopo aver condannato unanimemente l'uccisione di Yassin, ha interrotto ogni rapporto diplomatico con Tel Aviv, isolando politicamente lo Stato israeliano e congelando di fatto ogni trattativa di pace. Lo scontro in Palestina sembra volgere quindi verso un drammatico peggioramento. L'intifada ha già giurato la sua terribile vendetta, annunciando dure rappresaglie contro il territorio israeliano. E non è difficile prevedere a questo punto altrettante dure ritorsioni militari da parte dello Stato di Israele. La tragedia in Palestina continua inesorabilmente. Stefano Minutillo Turtu, reporter associati per Amisnet Radio.